Tu yeah, 200 oh yeah, yeah. Il numero 5 this is the remix Sonny Monkey oh remix yeah, al paese mio yeah. Alza il volume del oh yeah, yeah. Chiudi bene lo sportello, metti la prima poi mi raccomando oh yeah, non correre. Il sole muore lentamente, le ore passano, è un'altra giornata di lavoro e di situazioni che mi stancano. Per strada senti mormorare che il più grande uomo è quello che alle 6 va a lavorare. È tutto normale, ci insegnano già da bambini a diffidare. E gli stolti imitano i divi, materialismo che dilaga, spesso come morfina per l'ego di chi ha una vita insensata. E comincia tutto qui e così, muovi i primi passi tra vento, mare e sigarette. Sfere di pensiero sono figlie di ovvietà, e imprevisti quasi sempre generano avversità qua. Quando vedi che le cose vanno male, quello per tutti quanti è il momento di pregare. Ed è inutile che se ne discuta, al paese mio si dice aiutati che Dio ti aiuta. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E trovi come saggio che invio è ciò che si dice al paese mio. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E trovi come saggio che invio è ciò che si dice. Quando i discorsi sono i soliti e se deboli si abbocca, e credi in chi parla per dare aria alla bocca, tanto è facile trovare soluzioni per chi vuoi, soprattutto se guai non sono i tuoi. È il pessimismo di chi vive questa farsa per non recitare su sto palco da comparsa. Ed è saggezza per chi fa il saccente, l'uomo parla poco, è il fesso che parla sempre. Al paese mio si cerca ciò che è più familiare, nelle facce riunite in un cenone di Natale. E per quanto acido ti scorra nelle vene, è sempre meglio piangere con le pance piene. Se da me diventa una comodità disperarsi per l'unica cosa che non si ha, per sentirti un forte cavaliere alla tua Edoras. Che bella vita si ruras. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E trovi come saggio che invio è ciò che si dice al paese mio. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E trovi come saggio che invio è ciò che si dice. Randaggi vagano nelle strade senza suono, ma penso che un cane a volte sia più razionale persino di un uomo. E Vangela fa gabia certa agenda, ma ne ha fatica e stiende a cagà c'evo niente. Mi chiamano cafone ma mi credi, al paese mio si dice che questi cadono sempre in piedi. È la voglia di apparire dei repressi, il barbiere ci fa belli ma una donna ci fa tutti i fessi. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. Ma al paese mio a vita è come opposatura, ci sta che piglio in gaba e che piglio sembra meglio che mi censuro. Con queste volgarità si non si scandalizzano i figli di papà, gente che vede a metà come El, non sanno a fe scarpare e rombono cazzi se manzella. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E l'unico messaggio che invio è ciò che si dice al paese mio. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E l'unico messaggio che invio è ciò che si dice al paese mio. Ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E l'unico messaggio che invio è ciò che si dice al paese mio. Il sangue che ci scorre nelle vene ci lascia dire che va tutto bene. E l'unico messaggio che invio è ciò che si dice al paese mio.